Hai mai fatto scrivere ai bambini una lettera rivolta a Dio? Sembra molto strano chiedere ai bambini di scrivere una lettera a Dio, perché noi per primi non troveremmo la cosa difficile, ma i bambini non si caricano delle problematiche intellettuali degli adulti e dalla loro semplicità. Possono scaturire dei pensieri veramente originali e anche profondi. Ne danno prova le seguenti brevissime letterine scritte da alcuni bambini. Prendendoli in esame si può anche sorridere, ma per certo colpisce profondamente con quanta semplicità e onestà essi si rivolgono a Dio. La prima letterina è del seguente tenore. Caro Dio, il Maestro ci ha letto, quando tutti gli ebrei hanno attraversato dove prima c'era l'acqua, e poi era sparita. Continua così. Io sono ebrea. Un bacio. Paola. Quando Gesù ha detto che non si può entrare in cielo se non si diventa dei piccoli fanciulli, voleva dire esattamente ciò che Paola ho espresso nella sua preghiera. Per molti, la Bibbia contiene racconti mitologici o descrizioni puramente inventate, e perciò tutte da discutere e da contestare. Mentre un bambino, nell'udire le opere di Dio, desidera che egli continui a compiere le stesse imprese straordinarie. Per quanto se ne dica, gli ebrei sono coscienti di essere un popolo particolare. Sono consapevoli di essere rigettati sia come persone sia come razza, e più che questo, nel profondo del loro cuore, si sentono abbandonati da Dio. L'ultima persecuzione contro gli ebrei ne ha decimato milioni, ha creato una profonda cicatrice che ormai sembra non più risanabile. Perciò i bambini ebrei ascoltano con un interesse particolare gli avvenimenti di Dio, e gli adulti più sono semplici, come i bambini più chiedono disperatamente l'intervento di Dio affinché sia loro concesso di ritornare ad essere il popolo che un tempo Dio usava per compiere opere straordinarie. La preghiera continua così, è il profondo desiderio di vedere Dio all'opera, desiderio questo che dovrebbe abitare in tutti coloro che hanno posto fede in Cristo. Spesso le circostanze negative della vita ci rendono cinici e increduli, ma la vera fede va oltre le apparenze. E se la parola di Dio afferma che Dio compie meraviglie ogni giorno, significa che se non vediamo cose straordinarie è per la nostra cecità e non perché Dio non compie nulla. Chi ha posto fede in Cristo può dire a Dio con Paola. Continua così. Io sono cristiano con una fede ebraica. Un'altra letterina di una bambina era questa. Caro Dio, tu ti fai fare tutto il lavoro dai tuoi angeli? La mamma dice che noi siamo i suoi angeli e che dobbiamo fare tutto. Baci Maria. E' bello vedere come i bambini trasportino nella pratica le realtà spirituali. Evidentemente a Maria non piaceva fare tante cose, perché come a ogni bambino trovava più gradevole divertirsi che lavorare. E si è chiesta se Dio trattasse gli angeli come sua mamma trattava lei. Dobbiamo imparare dai bambini a non ascoltare la parola di Dio come qualcosa che non abbia a che fare con la realtà. Perché altrimenti i comandamenti di Dio diventano solo una forma religiosa inutile e dannosa. La lettera di un altro bambino mette in evidenza come i piccoli fanciulli siano sensibili alle espressioni religiose. Caro Dio, andare in chiesa va bene, ma potresti avere della musica più bella. Spero che non ti faccia dispiacere. Non puoi scrivere nuovi canti? Il tuo amico. Giorgio. Chi avrebbe mai detto che un bambino noti la musica e abbia dei gusti personali in merito? Forse. Giorgio era obbligato ad andare in chiesa, ma dal momento che ci doveva andare, potendo ascoltare della musica più consona ai suoi gusti, sarebbe stato più contento. E proprio vero che il rapporto con Dio non è solo spirituale, ma anche umano. Un altro bambino si è rivolto a Dio con una domanda piuttosto insolita. Caro signor Dio, cosa pensi di quelli che non credono in Lui? Sì, è uno che vorrebbe saperlo. Un amico. Luigi. Luigi dimostra che già da fanciulli ci si pone il problema di cosa succede a chi non crede in Dio. E molto strano che gli adulti possano vivere con una certa apatia nei confronti delle realtà spirituali, ma se questo succede è perché hanno soffocato la voce dello Spirito di Dio con dei ragionamenti insensati, e si sono dati ai piaceri illeciti per soddisfare i propri desideri proibiti. Nessun bambino nasce ateo, atei però si diventa. Forse Luigi avrebbe voluto, come tutti i bambini, meno fare delle cose che gli erano state proibite, ma la sua coscienza lo rimproverava. Così ha chiesto a Dio che cosa ne pensasse di quelli che sono increduli. Luigi ha messo in evidenza come spesso interrogativi in merito a Dio siano scuse per poter fare quello che si vuole. Una letterina di un altro bambino mette enfasi sulla parola di Dio. Caro Dio, il tuo libro è forte. A me piacciono le storie di fantascienza, le tue idee sono buone e vorrei sapere dove le hai trovate. Il tuo lettore. Gianni C. È da chiedersi come Gianni pensi che la Bibbia sia un libro di fantascienza. Non certamente per un'inclinazione naturale, perché tutti i bambini sono propensi a credere ciò che viene detto. Perciò, molto probabilmente, o i genitori o persone a lui vicino gli hanno inculcato che la parola di Dio contiene storie di fantascienza, e per questo Gianni ha ritenuto come tale ogni racconto biblico. L'atteggiamento di Gianni insegna quanto sia importante credere alla parola di Dio, perché non possiamo pretendere che i nostri figli siano credenti quando noi non lo siamo. E se non siamo credenti, cosa pretendiamo dai nostri figli? Noi pretendiamo che siano leali, onesti, altruisti. Questi valori morali non nascono nei prati, ma scaturiscono da Dio stesso e dalla sua parola. Gianni riconosce che le idee di Dio sono buone, ma talmente buone da indurlo a rendersi conto che esse non appartengono all'opinione comune e neppure alla fantascienza. Un bambino ha percepito quello che tanti grandi non hanno fatto. Non è forse umiliante per l'uomo sapiens? Donato, un bambino certamente religioso, scrive la seguente lettera. Caro Dio, venerdì andiamo in vacanza per 15 giorni e così non verremmo in chiesa. Spero che ci sarai quando torniamo. Tu quando vai in vacanza, tuo Donato. I bambini sono portati a pensare al cielo e a Dio facendo il confronto con le cose terrene. Questo atteggiamento è molto saggio anche perché la dimensione celeste non è molto diversa da quella terrena, con una differenza però. E che il bambino non è ancora in grado di pensare, non è il cielo che rispecchia la realtà terrena, ma è la realtà terrena a rispecchiare la realtà celeste. In effetti non è Dio che è fatto a immagine dell'uomo, ma è l'uomo che è fatto ad immagine di Dio. Come non è la dimensione celeste ad essere fatta ad rappresentazione del mondo presente, ma il mondo presente che è rappresentazione delle realtà celesti. Un bambino non può comprendere questo capovolgimento delle cose, ma fra gli adulti chi lo ha compreso? Chi ha compreso che la gioia e la pace terrena sono la figura della gioia e della pace di Dio, mentre il dolore e la sofferenza sono la figura dei tormenti eterni? La lettera di Silvia fa molto sorridere. Caro Dio, i maschi sono meglio delle femmine. Lo so che sei un maschio, ma cerca di essere giusto. Silvia. Un certo complesso di inferiorità delle femmine nei confronti dei maschi ci è sempre stato. Come per ogni valore morale, l'ingiusto e il cattivo esistono solo se vi è il giusto e il buono. L'odio non esiste allo stato puro come non esiste il lievito. Se il lievito è pasta buona fermentata, così l'odio è amore giusto che si è trasformato in odio. Nessuna creatura nasce con l'odio, mentre tutti nasciamo con l'amore che nel corso della vita si può trasformare in odio. Così, se vi è il complesso di inferiorità, una certa giusta inferiorità esiste nella donna, ed è inutile negarlo perché la donna rimane comunque, secondo Dio, il vaso più debole, 1 Pietro 3.7, e debole l'uomo, ma la donna lo è ancora di più. Detto questo, se le bambine avessero bene in mente la differenza tra uomo e donna, accetterebbero il loro ruolo giusto di sottomissione, senza per questo sentirsi inferiori al maschio. Come persone, maschio e femmina hanno lo stesso valore davanti a Dio e così reciprocamente, ma sono stati loro attribuiti ruoli diversi. Se una bambina chiede a Dio di essere giusto è perché uomini e donne hanno degli inutili complessi e non hanno compreso il piano di Dio. Un bambino che ha ascoltato i racconti della Bibbia pone una domanda. Caro Dio, se fai tutte queste cose hai molto da fare. Ho una cosa da chiederti. Quando è il momento migliore per parlarti? Lo so che ascolti sempre, ma quando ascolti di più qui dove sono io? Tuo affezionatissimo. Marco. Questa lettera ha forse un sapore ironico, ma i bambini non sempre hanno della malizia. Marco. Chiede a Dio il momento migliore per parlargli, forse questo desiderio nasce dalla bramosia di essere ascoltato. Avessimo sempre noi adulti un simile atteggiamento. Un'ultima letterina di una bambina ci mette in ginocchio. O almeno. Mi ha profondamente umiliato. Al Signore grazie per avermi dato il mio papà e la mia mamma. E i loro bambini e il cane e il pesce. Grazie per averci dato il mondo tanto bello per vivere. E gli occhi per vederlo. E quello che mangiamo e il cervello per pensare. Grazie di tutto. Baci. Franca. Che bello vedere dei bambini che hanno un cuore così pieno di riconoscenza nei confronti del loro creatore. La riconoscenza, questo è vivere. Questo non è solo essere bambini, ma adulti che hanno compreso appieno l'amore di Dio. E bello sentire un bambino che ringrazia per tutto, soprattutto per aver ricevuto un cervello per pensare, ma è un vero miracolo che un adulto sia conscio di quello che spinge un fanciullo a ringraziare e anche di essere stato perdonato da tutti i peccati. Questo non è solo bello e un miracolo, ma è un capolavoro di Dio. Aprile 2007. Ellero.